Italia in controluce. Nicola Gai, 44 anni, Alfredo Cospito, 46 anni. Per loro questa mattina all'alba è scattato il fermo a Torino. Sarebbero stati loro due, infatti, a compiere l'attentato contro Roberto Adinolfi, l'amministratore delegato di Ansaldo Energia, che, come ricorderete, fu gambizzato sotto casa a Genova il 7 maggio scorso. Poco fa, questa mattina, si è tenuta a Genova la conferenza stampa da cui sono emersi particolari sulle indagini, sulle due persone coinvolte. Allora, prima di collegarci con il nostro Andrea Ferro, che ha seguito questa conferenza stampa a Genova, e sentire la voce degli investigatori, ricostruiamo i fatti di quel 7 maggio in diretta qui con noi in studio. Valentina Furlanetto. Sì, buongiorno Piera, buongiorno ancora una volta agli ascoltatori. Ricostruiamo allora quella giornata nella quale Roberto Adinolfi, 54 anni, amministratore dell'Ansaldo Nucleare, società del gruppo Ansaldo di proprietà di Finmeccanica, venne ferito. Accade tutto la mattina molto presto in via Montello 14 nel quartiere di Marassi. Adinolfi uscì di casa alle 8 del mattino, un comando di due uomini lo attese in strada, gli sparò un colpo di pistola ad un ginocchio che gli procurò la frattura della tibia. Poi i due fuggirono in moto. La moto fu ritrovata poco dopo, non lontano dalla stazione ferroviaria di Brignole. L'arma utilizzata nell'attentato era un'arma in uso alle forze armate dei paesi dell'est. L'attentato è stato rivendicato 4 giorni dopo, l'11 maggio, dalla Federazione Anarchico Informale, con un comunicato spedito da Genova alla sede del Corriere della Sera a Milano. Abbiamo azzoppato Adinolfi, uno dei tanti stregoni dell'atomo, era scritto nel testo firmato Cellula Olga, in riferimento a un membro del movimento arrestato lo scorso 4 gennaio e detenuto in Grecia. Il comunicato è stato ritenuto poi attendibile da fonti della sicurezza, secondo le quali gli anarchici della FAI avevano così alzato il tiro e deciso di abbracciare la lotta armata. Piera, se vogliamo, sì, metterci, okay, in collegamento adesso con il nostro corrispondente. Questi da dunque i fatti del 7 maggio e quello che successe nei giorni successivi, fatti che Andrea Ferro naturalmente ricorda molto bene perché successi nella sua città. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Da quello che è emerso durante la conferenza stampa, innanzitutto la ricostruzione di questa indagine, l'identificazione di Alfredo Cospito e Nicola Gai è avvenuta attraverso le immagini registrate alle 8:21 del 7 maggio scorso dalle telecamere di tre negozi situati tra via Galata e via San Vincenzo, a pochi passi dalla stazione Brignole e dal luogo dove era stato abbandonato lo scooter dopo l'agguato compiuto, come si diceva, in via Montello. Nelle registrazioni piuttosto nitidamente si vedono i due camminare sul marciapiede, non insieme ma distanziati di pochi secondi l'uno dall'altro. Cospito in particolare, ci sono dei fotogrammi piuttosto precisi, ha una sacca che contiene presumibilmente, così ritengono gli inquirenti, il casco che si era sfilato poco prima dopo essere sceso dallo scooter. A questo proposito, sulla ricostruzione delle indagini e sui modi che hanno consentito agli inquirenti, sia la Digos che i carabinieri, di giungere all'identificazione del comando, io ascolterei il procuratore di Genova, Michele Di Lecce. Nel filmato potete vedere che uno dei momenti, ma non l'unico certamente, saliente delle indagini è stato il momento in cui si è riusciti a individuare attraverso una telecamera di un esercizio commerciale posto nelle vicinanze della zona dove era stato parcheggiato regolarmente il ciclomotore utilizzato dagli attentatori per recarsi prima e allontanarsi poi dal luogo dell'attentato. Attraverso le immagini, dicevo, registrate da questa telecamera si è risaliti a due soggetti che avevano un certo andamento, si è approfondita la verifica, si è comparata queste immagini, sono comparate con foto e con rilievi che venivano da altri documenti, altri procedimenti che riguardavano i due indagati, e attraverso una serie complessa e articolata di elaborazioni scientifiche si è arrivati a un giudizio di piena compatibilità tra le immagini che avevamo, che erano quelle certamente dei due fermati, e le immagini riprese da questa telecamera in quel momento. Ecco, dunque fondamentali, come abbiamo sentito nelle parole del procuratore di Genova Michele Di Lecce, le immagini catturate dalla telecamera, anzi dalle due telecamere. Torniamo a collegarci con Andrea Ferro. Allora Andrea, ci sono state però altre perquisizioni? Sì, innanzitutto vale la pena di ricordare che nell'inchiesta è formalmente indagata una terza persona, è una donna, è Anna Beniamino ed è indicata agli inquirenti come la compagna di Cospito. I due come gay sono nomi già noti da tempo alla Digos di Torino. Per quanto riguarda perquisizioni, sono scattate contemporaneamente all'esecuzione dei provvedimenti di fermo in varie località, innanzitutto a Bordighera in provincia di Imperia, nella casa vacanza di intestata a un parente di Cospito, poi in provincia di Pistoia in una località dell'Appennino Tosco Emiliano e in due abitazioni del Cuneese. E a questo proposito sentiamo allora anche le parole, perché c'erano altri investigatori molto importanti questa mattina alla conferenza stampa a Genova, è arrivato anche Caselli, Andrea. Sì, a questo proposito si era parlato nelle prime ore del mattino del fatto che i due fermati potessero far parte del movimento Ottavo, comunque essere in qualche modo legati ad alcune cellule di anarco-insurrezionalisti protagonisti degli incidenti compiuti negli ultimi mesi in Val di Susa. A questo proposito il procuratore di Torino Giancarlo Caselli, che come dicevi era presente alla conferenza stampa che si è tenuta nella tarda mattinata qui a Palazzo di Giustizia, ha tenuto a precisare. Ascoltiamo. I soggetti interessati dall'inchiesta, così come l'area cui tali soggetti si riferiscono, manifestano un'ostilità, una diffidenza di fondo, basta vedere il volantino di rivendicazione dell'attentato ad Inolfi, per quelli che genericamente qualificano come movimenti di ribellione. Con gli estremisti Notav vi sono stati soltanto pochi occasionali episodi di osservazione esterna. E più in generale, dai documenti riferibili a questi soggetti o all'area di riferimento dei soggetti medesimi, risultano concetti tipo la ricerca del consenso sociale non è produttiva, bisogna intervenire qui ed ora, c'è un rifiuto del cosiddetto gradualismo e quindi una sottolineatura dell'urgenza di intervenire, altrimenti si pecca di miopia rivoluzionaria. C'è conseguentemente una, come dire, differenza, collocazione ontologicamente, almeno per quanto risulta lo stato degli atti, diversa. Quindi insomma Andrea, da quello che si è capito dalla conferenza stampa, dalle parole di Caselli, la vicinanza al movimento Notav è davvero scarsa, esigua. Sì, addirittura pensate, Caselli ha preferito leggere direttamente, testualmente queste frasi, sapendo che chiaramente era una questione molto delicata, proprio per trasmettere senza prestare il fianco a eventuali interpretazioni diverse, per leggere direttamente il contenuto del suo pensiero. Sì, era molto imbarazzato, no? Sembrava quasi che avesse paura comunque di dire una parola che potesse poi scatenare chissà quali polemiche, è stato molto attento. Lo ha praticamente ammesso, ha detto tiro fuori questo fogliettino, un fogliettino veramente piccolo, e ha letto testualmente, chiaramente Caselli non è persona che ha problemi di dialettica, che ha problemi a rivolgersi ai giornalisti, ma sapeva che su questo punto avrebbe rischiato di prestare il fianco a eventuali strumentalizzazioni. Ricordiamo che Caselli è il nemico numero uno degli anarco-insurrezionalisti ed è stato più volte tirato in ballo tra minacce e intimidazioni di vario tipo in questi ultimi tempi. Grazie al nostro Andrea Ferro da Genova che ci ha raccontato insomma i dettagli di questa importante conferenza stampa di questa mattina, ma restiamo invece sull'analisi del movimento anarchico. Su questo la nostra Valentina Furlanetto ha sentito Antonio Donno, docente ed esperto proprio del movimento anarchico all'Università del Salento. Nel caso degli anarchici insurrezionalisti si tratta di piccoli gruppi ma collegati tra di loro, che hanno sede probabilmente in diverse città d'Italia ma anche in diverse città europee, che ritengo siano in collegamento. I loro obiettivi sono obiettivi che hanno una presa sull'opinione pubblica più diretta, non sono le vecchie questioni ideologiche, dell'Ottocento, eccetera, eccetera. Per esempio l'ambiente, il nucleare. Al tempo avevano fatto riferimento anche al si chiamavano Nucleo Olga in onore di una anarchica greca detenuta in un carcere ellenico. È forte il collegamento con gli anarchici greci? Sicuramente sono in contatto perché tra le altre cose la Grecia è sempre stato un terreno di nascita e di sviluppo dell'anarchia tradizionalmente, storicamente. E l'attentato ad Adinolfi rientra perfettamente, perché si tratta di un problema, quello del nucleare, un problema sentito, è l'attacco al potere legato al nucleare. Grazie a Valentina Furlanetto per aver partecipato a questo approfondimento, che potete riascoltare cliccando sul nostro sito Italia in Controluce. Vi lascio ad America 24, un saluto da Maria Piera Ceci.